24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Pensa che Berlusconi possa essere impedito, imbavagliato, limitato? Berlusconi è un simbolo. E i simboli non si impediscono, non si imbavagliano, non si bloccano. I simboli, pensi a Aung San Suu Kyi, era bloccata a casa sua ed è diventata un simbolo mondiale. A place that has to be believed. Per Renato Brunetta Berlusconi è come Aung San Suu Kyi, la leader birmana imbavagliata per anni agli arresti domiciliari. Non si bloccano i simboli, non puoi fermare un simbolo come Aung San Suu Kyi. Allora non potevo iniziare che con la canzone degli U2 dedicata a Aung San Suu Kyi, canzone mondiale, leader mondiale di lotta, di resistenza, di libertà, di voglia di dire no, un simbolo mondiale della pace per tutti. Come Silvio Berlusconi, insomma, per Renato Brunetta. Buongiorno cari italiani, alle 6:35 minuti, questo è 24 mattino. Con Miriam Lucchetti, con Peter Bescapè, con È Venerdì in regia. Così oggi la regia è di È Venerdì. Oh. Miriam Lucchetti fa il pugnetto così, sì, come quando si esulta È Venerdì, vai. Alpino ha un sorriso serafico, non lo so, ma che ci avete, come mai? C'è un sorriso un po' ebete così, vabbè, un po' paralizzato. Va bene, apriamo subito il Parlamento. Mamma mia, sta tosse. Il caffè volentieri. Finirà. Allora, voglio subito salutare Vladimir Luxuria. Buongiorno, ben ritrovata. Eccoci qua. Buongiorno, sì. Buongiorno. Anche lei simbolo di pace, libertà, amore, giustizia. E insomma, come Berlusconi e come San Suu Kyi, e insomma, a questo punto facciamo. Brunetta con i paragoni non è che sia tanto bravo. Prima aveva paragonato Forza Italia alla Coca-Cola, sì. Adesso addirittura Berlusconi è la leader birmana. Va bene. Come gli vengono? Non lo so come gli vengono, però voglio salutare il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni. Come stai, Massimo? Eccoci qui. Buongiorno, eccoci qui. Effettivamente il paragone è un po' forte, Massimo. Ma no, i simboli sono i simboli, ognuno ha i simboli che si sceglie, che vuole, che desidera, per cui. Ho capito. Però dai. Non vedo lo scandalo. San Suu Kyi, ma no, nessuno scandalo, per carità, però insomma il paragone è un po'. Qualcun altro aveva paragonato a Nelson Mandela, credo anche. Non lo so. Chi? No, non lo so, qualcuno l'avevo sentito, un po' come. Forse lo stesso Brunetta, non lo so. Vabbè, mi sembra. Ah, Berlusconi stesso. A Berlusconi stesso? Sì. Sì, penso di sì. Quello almeno è un po' forte, insomma, non lo so. Comunque. Beh, anche all'unto del signore, insomma, cioè, all'unto del paragoni signore. Di Berlusconi. Anche. Effettivamente quello. Comunque, Berlusconi è affidabile, capito, Vladimir Luxuria? È affidabile ai servizi sociali. Io ricordo qui in questa trasmissione tu avevi proposto che cosa di che venga l'arcigay, non lo so, me la ricordo anche questa, l'anima. sono un po' cattiva. Un'altra proposta potrebbe essere come servizi sociali andare a fare le pulizie di casa alla casa del Grande Fratello, come la vedi? Mamma mia, sei con te che commenti, poi sì, ecco. No, no, ramazza un pochino più nell'angolo, ma dai, su. Fa compagnia ad altre persone, non ha piede libero, potrebbe essere carino e risolleva gli ascolti di Mediaset. Vabbè. Comunque, ma era tra l'altro, Brunetta, in questa intervista era intervistato dal tuo direttore, no Massimo? È così? Era... Sì, penso che posso iscrivere alla trasmissione di Belpietro la mattina. Esatto, alla trasmissione di Belpietro. Comunque, ecco, chiariamo subito una cosa, Massimo, perché tutti i giornali raccontano di un Berlusconi abbastanza, insomma, la presa, vabbè, bene, bene. Invece su Libero, voi avete questo retroscena, no? Ognuno scrive i propri retroscena, in cui si dice che Berlusconi è infuriato, dice, ma no, ma vi rendete conto, io, i servizi sociali, con la mia caratura, con la mia storia politica. Allora, ma si sa che Berlusconi non ha mai accettato né la condanna, che è controversa già di per sé, per lui è assolutamente inaccettabile, e neanche né gli effetti della condanna, evidentemente, per cui tutto quello che viene non va bene. E certo, poi ci sono le gradazioni, addirittura c'è stato un periodo in cui voleva rifiutare anche la richiesta dei servizi sociali perché sarebbe stato un riconoscimento della sentenza e perché soprattutto lo considera un fatto umiliante. E poi gli avvocati l'hanno convinto che era l'unico modo per riuscire a stare ancora sulla scena durante il periodo che dovrà scontare, e quindi ha chiesto effettivamente dei servizi sociali, ma pensare che sia contento è difficile. E non è contento. Beh, che fosse contento no, però voglio dire, voi lo definite come infuriato, invece gli altri giornali dicono beh, vabbè, a questo punto si può continuare nel percorso delle riforme, sono abbastanza, insomma, il fatto che gli verranno concessi. Come sono i retroscenisti. Ognuno ha la sua versione. Ognuno ha la sua versione, mi sembra giusto. Vabbè, a Vladimir Luxura, che dobbiamo dire di questa vicenda di Berlusconi? Decideranno nel giro tra i 5 e i 15 giorni, forse martedì. Vabbè, ma boh, andrà in una struttura, poi adesso ci sarà l'assalto mediatico alla struttura. Basta, insomma, la consideriamo chiusa sta vicenda? No. Beh, è chiaro che Berlusconi è arrabbiato, si è arrabbiato. Se chiedi a qualsiasi persona che deve scontare una pena in qualsiasi modo, se è contenta di farlo, ti risponderà di no. Mi sembra anche, cioè, non vedrei un Berlusconi che dice wow, sì, sono contento. Credo che sia meglio per lui non stare agli arresti domiciliari, ma di scontare la pena appunto con un affidamento ai servizi sociali. Può usare questa cosa anche a livello elettorale, un po' come le imprese mussoliniane, potrei vedere Berlusconi che va a aiutare in un canile, non so, o che va in un centro di anziani. Potrebbe anche usarla per riscattare la propria immagine in un periodo in cui la sfida sembra solo tra Renzi e Grillo. Io ricordo, questo mi fa ricordare un po' le foto di Boy George, cantante dichiaratamente omosessuale, che per scontare la sua pena dovuta a una questione di droghe ha dovuto spacciare le strade di New York. Sì, me lo ricordo. Sono viste le foto. No, fammi capire, sì. Cioè, dopo il paragone con Aung San Suu Kyi, tu vorresti paragonare invece Berlusconi a Boy George? No, adesso. Sì, anche lui ha dovuto scontare la sua pena spacciando le strade di New York. Vabbè, se lo facesse Berlusconi, sembrerebbero le foto di Mussolini quando mietevi il grano. Ecco là il paragone. Ecco, abbiamo fatto tutti i paragoni possibili, da Aung San Suu Kyi a Boy George. Pare, dai. A Mussolini, no, che c'è Massimo? Abbiamo fatto tutti i paragoni. No, sono d'accordo, se Berlusconi vuole lo può usare mediaticamente. Ma certamente, cose, ma qualcosa si inventerà. Sì, per... Ricordo solo che questa è una richiesta. I giudici devono ancora decidere. Sì, sì, no, beh, le certo, sorprese però... le abbiamo già viste con Berlusconi, per cui... Non è ancora, non lo darei ancora così. Però va bene, la procura stessa ha chiesto così, sì, beh, sì. Però i giudici certamente possono decidere. A proposito di giudici, io voglio metterla su questo tema. Allora, l'apertura di Libero oggi è un'apertura che sicuramente farà discutere anche con Vladimir Luxura, eccetera. Chiudete anche la Camera, tanto fanno tutto i giudici. Voi avete messo insieme la questione della fecondazione eterologa, la questione dei matrimoni gay, giusto per citare alcuni casi, insomma, i cosiddetti i temi etici. A Grosseto, no, c'è questo giudice che ha iscritto, ha imposto la registrazione di un matrimonio omosessuale tra due uomini, e tra l'altro la procura ha fatto ricorso. Allora, Vladimir Luxura, libero titolo così, ma tanto vale, chiudiamo le camere, chiudiamo tutto, tanto sono i giudici con delle sentenze ormai che fanno le leggi, come la fecondazione eterologa. Dipende dai punti di vista, perché io potrei pure dire chiudiamo le camere, tanto è il potere ecclesiastico che decide tutto, perché diciamoci la verità, su alcune questioni purtroppo, meno male che c'è la Corte Costituzionale che difende ancora la laicità del nostro paese, perché pensare di imporre a tutti un proprio punto di vista etico, io credo che sia la cosa meno laica che si possa fare. Aver imposto a tante persone che non possono fare dei figli, ma lo desiderano fortemente, semplicemente perché sono persone sterili, a obbligarle ad andare all'estero più volte, a spendere dei soldi per soddisfare il desiderio più naturale, quello di avere dei figli, io credo che sia la cosa... Però è stata fatta una legge dello Stato, cioè piaccia o no, la legge si può cambiare, ma questa idea che un Parlamento fa una legge votata a maggioranza e un giudice cambia, per esempio la questione del matrimonio gay, non so, Massimo De Manzoni, a me quello ha colpito, cioè c'è un giudice che ha stabilito che siccome non c'è nessun riferimento al sesso delle persone, si può anche iscrivere all'anagrafe il registrare il matrimonio tra due uomini, cioè di fatto ha introdotto de facto proprio il matrimonio gay in un paese in cui non c'è. Infatti, ma il tema è proprio questo, bisogna andare al di là del merito della cosa, uno può essere d'accordo o non d'accordo. Io personalmente posso dire tranquillamente che non avevo nessuna preclusione verso l'eterologa e neanche verso considero necessaria la regolamentazione delle unioni anche omosessuali. Però ci sono, i due casi sono diversi. In un caso abbiamo non solo una legge dello Stato votata e tutto quanto, ma confermata da un referendum, e quindi è stato un intervento, ripeto, a prescindere dal fatto che si possa essere d'accordo, sì, o non è il d'accordo, metodo, è il metodo abbastanza gamba tesa su un'altra istituzione che è quella legislativa. Nel caso invece di Grosseto, vabbè, siamo un'iniziativa un po' estemporanea perché sono in Italia un giudice di un tenta di introdurre una legge per sentenza in questo modo qui. Però è vero che si inserisce in un vuoto normativo, per cui ci sono anche delle colpe specifiche su questo tema poi ovviamente adesso ci sono anche tanti ricorsi dell'invadenza di campo della magistratura, è altrettanto critico anche nei confronti dell'ignavia della politica che spesso lascia degli spazi liberi a questo tipo di interventi. No, c'è da dire che Vladimir, anche questa vicenda di Grosseto, adesso vedi che pasticcio, il procuratore capo ha detto faccio ricorso contro la decisione del giudice di scrivere, cioè pure i magistrati che adesso si fanno la guerra su questa cosa, cioè comunque la vedi, al di là del pensiero sui matrimoni omosessuali, è un pasticcio, cioè non si può fare così, non si può normare così, no? Allora, intanto per quello che riguarda la fecondazione eterologa voglio ricordare che c'è stato un referendum e che non c'è stato in realtà, è stato un referendum in cui non si è raggiunto neanche, non c'è stata una vera e propria posizione da parte del Parlamento, c'è stato un referendum che è andato come è andato. Per quello che riguarda invece la Corte Costituzionale, effettivamente nella Costituzione noi non abbiamo il divieto del matrimonio tra persone dello stesso sesso, si parla di coniugi, mentre la Costituzione spagnola l'hanno dovuta cambiare perché c'era scritto marito e moglie. Ma al di là di questo, io credo che è meno male che la Corte Costituzionale prende delle posizioni, perché intanto la società cambia e c'è una richiesta sempre maggiore di questo tipo di regolamentazione. E mentre almeno la Corte Costituzionale lancia un sasso in questo stagno, il Parlamento l'Italia non è l'unico paese, il Parlamento, nonostante le promesse di tutti, da Prodi fino all'ultimo Renzi, poi in realtà non ha mai regolamentato le unioni tra persone dello stesso sesso che stanno aumentando sempre di più. Ma è chiaro che vedi che allora l'appello chiudete la Camera, tanto fanno i giudici, non è poi così tanto sbagliato. Comunque andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi rientriamo. 24 mattino. quante chiacchiere che ci sono in giro, eh? Tra poco ci saranno le elezioni europee. Non sarebbe il caso di approfittare dell'occasione per dimezzare un pochettino le prebende anche di quei signori che sono i più pagati d'Europa? Milan, qui è sempre la solita minestra. Con una mano danno e con l'altra tolgono. Danno gli 80 euro, la quattordicesima, come dicono in TV e alle altre radio. La quattordicesima di 80 euro, sì, però non dicono che tolgono gli assegni del coniuge a carico, eh. È sempre la solita minestra riscaldata. Ciao Milan, ciao Forchelli! Far diventare fuori legge tutte le società di recupero crediti, che sono strozzini che comprano i debiti al 10%, i crediti dalle aziende, dall'Enel, dall'Eni, da chi ti pare, e poi se li fanno pagare con interessi altissimi e con spese in maniera evidente anche violente contro i poveracci che non possono pagare. Carissimi, buongiorno, sono qui col Dudu che ascolto tutti i giorni la rassegna stampa del Milan. È bravissimo tanto, eh. Ci piace un sacco quel premio lì della carta che costa, che lo fa vincere quasi sempre il mio giornale, siamo fortissimi. Tanto mi ricordo quando la Lino lavorava per me, faceva l'autista delle oggettine, quanta me ne hai portata Lino, quanta me ne hai portata, di fortuna ovviamente. Che è un po' finita, eh. Adesso mi voglio mettere ai servizi sociali. Ci mandi l'omeazza, Cribio! Ciao Alino, sei bravissimo, eh. Ciao, ciao. Zedù, saluta Alino. E l'omeazza che li facciamo, Zedù. Ciao, ciao Alino. Vabbè, ma questo è un genio, questo è un genio. Lo voglio conoscere, lo voglio conoscere. Ci ha chiamato Berlusconi, Vladimir Luxuria, sono attenti. Ci ha chiamato Berlusconi e quindi che dobbiamo fare? Allora, no, vabbè, io rimango sempre un po' perplesso su questa cosa di Grosseto, devo dire. Magari lunedì me ne occuperò anche. Vladimir, io non riesco a capire il metodo ancora, cioè mi scervello, ma come dire, anche Anna Paola Concia, per esempio, ha detto: anch'io mi sono sposata in Germania, sono arrivata a Roma, ho chiesto la registrazione e il comune, lì in quel caso il giudice ha detto di no. Cioè, capisci che. Allora non si manco la stessa interpretazione viene fatta in modo diverso. Ma la Corte Costituzionale ha il dovere di vedere la compatibilità tra ciò che viene fatto e le leggi costituzionali, ripeto, nella nostra Costituzione. No, ma lì è stato un giudice, cioè lì è stato un giudice a Grosseto. Cioè, è stato un giudice a Grosseto ha deciso così, questi hanno fatto ricorso lì. Speriamo che questa sia un'occasione per far discutere di questa legge finalmente nel nostro Parlamento, perché qui ci aspettiamo ancora, saremo, non so, forse saremo il penultimo stato che farà una legge sulle unioni civili dopo il Vaticano. Ma allora su questo io ti posso seguire, cioè voglio dire, ma anche Massimo Di Manzoni dice io posso essere favorevole personalmente, però il percorso normale dovrebbe essere appunto che il Parlamento faccia qualcosa. Però Massimo, è anche vero che se no qua, visto che si dice il Parlamento non fa niente, sembrano un po' anche delle azioni di forza, no, per costringere qualcuno a muoversi. Ma quello che dicevo prima, cioè le colpe come sempre sono ben distribuite, cioè il giudice è chiaro che ha fatto un'azione un po' da matto, cioè una forzatura, tanto è vero che c'è un altro giudice che gli fa ricorso contro, e che è evidente che non era il suo compito quello di fare quello che ha fatto, però è altrettanto vero che da anni e anni si tratta di una legge per le unioni civili e non si trova un accordo, così come si dibatte di una legge per il fine vita, così come si tratta di tante altre situazioni che si verificano nella vita reale e che di cui si parla quando c'è un caso eclatante, il caso Englaro, sì, è ben chiaro, chiaro, fu emblematico. Per un momento sembra che non si parli d'altro nel paese, il Parlamento si impegna, sì certo, faremo, dovremo, e poi non si fa niente. Nulla. E quindi nel vuoto è facile che qualcuno si inserisca anche con azioni un po'. Un po' strane. Io nel dovervi salutare voglio ricordare una cosa. Vladimir Luxuria, mi risulta che tu sia a Torino.

punto di domanda, presidenti Donna, Via Scaroni e Conti dall'Eni e l'Enel, questo assicura Repubblica. Renzi, che ieri tra l'altro ha detto i manager scontenti se nel pubblico vadano pure nel privato se vogliono e vediamo se li prendono. Allora, Repubblica con Alberto D'Argenio e Andrea Greco a pagina 11, tra le indiscrezioni dice che all'Enel come capo azienda viene dato in pole position Francesco Starace, attuale amministratore delegato di Enel Green Power, la cui nomina al posto dell'uscente Fulvio Conti sarebbe la soluzione più gradita all'interno dell'azienda. Per Finmeccanica sembra allontanarsi il trasferimento di Mauro Moretti dalle Ferrovie, mentre il più accreditato per ricoprire il ruolo di amministratore delegato è Giuseppe Giordo di Alenia. Alle Poste dovrebbe andare Francesco Caio, il mister agenda digitale nominato dal governo Letta. Queste sono le idee che vengono fatte trapelare da Repubblica. Va bene, siamo in conclusione, siamo al momento della carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali, oggi vince il Corriere con Maria Luisa Agnese. Io quando leggo questi articoli, sapete, l'argomento è sensibile, già il titolo mi fa innervosire. Svegliarsi presto o andare a letto tardi? Col punto di domanda, una pagina su questo. Le telefonate all'alba di Agnelli. Obama invece che fa le riunioni alle 23. Il Papa che si sveglia alle 4:45. Ma non era le 4? Hai capito? Un po' debosciato anche lui negli ultimi tempi. 45 minuti più tardi. Ma prega già dalle 5. Meglio i mattinieri o meglio i tiratardi? Chicco Testa che fa sapere che si messaggia con Matteo Renzi alle 5 e quello gli risponde alle 5:02. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega, cari italiani? Ah! Ah! Il giornale radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 24 Mattino. Quando sono le 8:19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, a osservare la politica, a osservare soprattutto due dei leader, Matteo Renzi, numero uno del PD e del governo, e Silvio Berlusconi, numero uno di Forza Italia ed ex numero uno del governo. Insomma, si hanno due immagini un po' antitetiche in questo momento. Sembra un Renzi forte in sella, che corre sempre in movimento, talmente sicuro di sé che può dire anche ai manager pubblici: se siete scontenti andate a lavorare nel privato, sempre che qualcuno vi voglia. Un Renzi talmente sicuro di sé che nottetempo, ma pare davvero così, nottetempo, con una decisione improvvisa e solitaria, abbia messo capolista del PD 5 donne nelle 5 circoscrizioni. Lo ha fatto davvero notte tempo? Intanto lo voglio chiedere al sindaco di Bari, Michele Emiliano. Pare proprio così, sindaco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È vero, proprio notte tempo, cioè le è arrivato un sms da Renzi di notte, in piena notte. Beh, ma questa è, per noi è una prassi normale, nel senso che si lavora così ormai, credo non solo in politica ma in molti altri settori della vita italiana. Cioè cosa le ha comunicato, in questo, si può sapere, non violiamo la privacy? Io credo che, insomma, di tutta questa storia stiamo facendo un po' troppo clamore, cioè nel senso che mi pare un'idea buona quella di far guidare la lista da 5 donne, non era mai accaduto nella storia italiana. In questo momento c'è una questione di genere molto forte, per le donne in Italia è difficile trovare lavoro, è difficile trovare lavoro qualificato, scalare diciamo così le impervie montagne della leadership politica ma anche aziendale o in altri luoghi della società. Esiste anche una persecuzione, soprattutto al sud, nei confronti delle possibilità delle donne di avere servizi che le consentano una effettività della parità con l'universo maschile. Quindi dal punto di vista simbolico, la politica ogni tanto deve anche dare dei segni, deve creare dei simboli, mi sembra una scelta giusta. Però adesso la commentiamo, perché qualche screzio all'interno del partito c'è. Dicevo dell'altro leader, Berlusconi, certamente è un po' ammaccato, non c'è dubbio, la procura di Milano, è vero, non si è opposto alla richiesta di servizi sociali, dunque è probabile, presumibile, ipotizzabile che anche i giudici decidano così, ma è un Berlusconi che, seppure appare combattivo, pare che alla stampa dica ai suoi: se mi fanno parlare faremo la rimonta elettorale, però insomma mi sembra un partito un pochino in difficoltà. Lo voglio chiedere all'onorevole Maurizio Bianconi, buongiorno, di Forza Italia. Onorevole, buongiorno. Eravamo primi, siamo terzi, qualche problema c'è. È un po' ammaccato Berlusconi, ma lei riesce a sentirlo? Non fa parte di quel cerchio magico? No, io sono mesi che non lo sento, perché è finita la mia funzione, nel senso che io lo sentivo spesso in quanto ero amministratore del PDL, quindi ora sono liquidatore del PDL, quindi non ho più motivo di lavoro per sentirlo. Non ho rapporto personale, non sono né nel cerchio magico né nel cerchio tragico, sono un normale parlamentare, un dirigente nazionale, un parlamentare, proprio non l'ultimo della fila, ma insomma non ho frequentato. Però dovesse sentire, cioè si immagina, per quello che lo ricorda qualche mese fa, più vicino, visto che ci sono tanti retroscena che raccontano di Berlusconi combattivo, no, disperato, no, depresso. Su questo io non ho dubbi che, almeno conoscendolo per gli anni che l'ho frequentato, che abbia questa voglia di combattere e poi abbia delle flessioni di umore, eccetera, questo rientra nel personaggio. Il problema è che noi dobbiamo trovare una collocazione politica, cioè se siamo all'opposizione siamo all'opposizione, se siamo maggioranza siamo maggioranza, ce lo sappiano dire. Io sono all'opposizione, decisamente, però questo fa confusione fra riforme e attività di governo, non mi sembra che sia al massimo. Ma questo è uno dei problemi politici all'interno di Forza Italia, questo è un divagare a capire essere pro o contro, questa linea a volte morbida, a volte dura, a volte semi rigida, a volte semi morbida, non si capisce a livello politico. Però allora, riprendendo le fila, Michele Emiliano, sa che Beppe Grillo le ha definite invece cinque veline, quelle che lei definisce invece una scelta coraggiosa di Renzi? Amico, ha deciso di fare politica così, non so quali sia la ragione, cioè lui confonde alle volte il suo umorismo, che è formidabile dal mio punto di vista, con la politica e soprattutto con la necessità che esiste nella politica di rispettarsi reciprocamente. Lui alle volte non comprende che fare politica è una cosa difficilissima, significa muovere alle volte milioni di persone tutte insieme verso lo stesso obiettivo, che se si inseriscono continuamente dentro questo tentativo che già è sovrumano, si inseriscono conflitti, insulti, insomma la cosa diventa quasi impossibile. E quindi, siccome poi la politica prima o poi è governo, non è solo opposizione, bisogna che lui cominci a pensarci, perché altrimenti inocula nel movimento, nella teoria che sta in qualche maniera creando, inocula i fattori stessi della dissoluzione del suo movimento. Ma intanto se non si allea con nessuno non avrà mai la maggioranza per governare. Però la questione, Emiliano, è che lei era candidato, doveva candidarsi alle europee, e ora dice no, ma con questa scelta mi faccio da parte, mi metto al servizio, nel suo caso, di Pina Picerno, che è candidata alla sua circoscrizione, cioè tutto bene così, davvero non ci è rimasto male un pochettino? No, assolutamente, anche perché a me la candidatura era stata richiesta un mese e mezzo fa da Matteo Renzi in persona per fare un certo tipo di lavoro, per dare un certo tipo di immagine alla lista, che era quella ovviamente del sud efficiente, del sud che pareggia i conti del bilancio. E invece ha cambiato idea. Ha cambiato idea Renzi. Dopodiché ha cambiato idea, è evidente che il mio obiettivo di vita non è quello di andare a fare il deputato europeo, io mi ero messo al servizio del mio partito. Adesso il progetto è un altro e io rischio di trovarmi in una situazione che non fa parte neanche di quello che le persone a me più vicine, mi riferisco ai pugliesi, mi chiedono, cioè i pugliesi erano già molto agitati che io facessi il capolista della lista delle europee, diciamo così, perché temevano che io potessi distrarmi dagli obiettivi che sono a loro più cari. A questo punto, visto che Ceppina, che peraltro è un politico più esperto di me, io voglio chiarire questo fatto. Io faccio politica solo da 10 anni, ho fatto solo il sindaco in vita mia. Ceppina in assemblee legislative da più tempo di me, fa politica sin da ragazzina, quindi è una persona politica. Questa può essere letta anche, letta anche come una critica, cioè voglio dire, altro che nuovo, è un po' più di anni di politica alle spalle. Io ho i capelli bianchi, mentre Ceppina è una ragazza giovane. No, vorrei dire, non è tutt'altro che inesperto. Mi faccia sentire su questo, anche se riguarda un partito che non la riguarda in prima persona, Bianconi, però lei su questa vicenda delle scelte, delle quote rosa, delle scelte anche simboliche, sicuramente è stata una scelta simbolica importante quella di Renzi di candidare 5 donne come capilista, che idea si è fatto? No, io sono come altre donne, cioè non e quei altri uomini, contrarissimo alle cosiddette quote rosa. Ma non sto qui a affrontare questo problema. Dico che Renzi è la Vanna Marchi della politica, quindi lo sciogli pancia ideale sono le donne capoliste, quindi lui l'ha scelato. Poi se sono brave o meno brave, Renzi, conoscendolo molto bene, lo fa passare da linea, insomma, basta che si presentino bene. Renzi ha una superficialità di comunicazione che corrisponde a una superficialità interiore. E quando lo conoscerete meglio ve ne accorgerete. Addirittura. Pensi che guardi la questione del basta che si presentino bene, qualcuno l'attribuì sempre a Berlusconi nel rapporto con le donne in politica. Ma Renzi è la è Berlusconi 2.0, è la Democrazia Cristiana 2.0, è l'inciuccio 2.0, è la divisione dei pani e dei pesci 2.0, è tutto, diciamo così, il deteriore possibile e immaginabile confezionato bene. Renzi è veramente un dramma per l'Italia, ve ne accorgerete. Addirittura, Emiliano, sì, è un dramma, è un dramma perché promette quello che non può mantenere. Dica qualcosa, ci sono già ci sono già degli esempi. Aveva detto che faceva le riforme a febbraio, a marzo, aprile, e ora le fa a dicembre, scrive che entro dicembre 2015. Sì. La riforma elettorale detto, vi dà il segno di quanto pallavo sia, quanto io lo chiamo Matteo Cazzaro nei miei tweet, perché è bugiardo dentro, capito? È uno di quelli bugiardi dentro, e non c'è niente, qui c'è anche una rivalità. C'è una rivalità toscana, mi sa. No, perché siamo amici. Insomma, io e lui amici, ci incontriamo, ci va a cena insieme, a pranzo insieme. Esatto. E non è questo il problema, è che è politicamente giustamente pericoloso. Emiliano dice se eravate nemici, che gli diceva? Ma perché Emiliano, nonostante il cognome, è pugliese e quindi non capisce questa cosa. Toscana. È molto toscana. Ieri, per esempio, in Parlamento, io parlavo con Parisi, col quale sono amicissimo, e avevamo di opinioni diverse, ci offendevamo tranquillamente, ma non è che non siamo amici, siamo amicizi, però abbiamo questo modo di confrontarsi senza peli sulla lingua. Insomma, Emiliano, questa cosa in Puglia non succede. No, sono meridionali, sono più permalosi. Ecco, questa è la questione. Però Emiliano, ma lei in Renzi uno parla così, va a finire a coltellate, ovviamente. Esatto, questo in Puglia. Ma Emiliano, Renzi, lei come lo vede nelle prime mosse? Usciamo un attimo dalla questione adesso delle donne capoliste, cioè è un po' la politica dell'annuncio oppure lei crede davvero? Voglio dire, sono 20 anni che noi aspettiamo che qualcuno faccia le cose che Renzi sta cominciando a fare. Dopodiché può capitare di rinviare di un paio di mesi, anche perché le burocrazie sono micidiali e qualche volta anche vendicative, bisognerà fare attenzione a non farli arrabbiare troppo, tutti i burocrati di Stato che si sentono travolti da Renzi e che potrebbero sabotare con delle tecniche che io conosco bene le nostre buone intenzioni. Tipo, me ne dica una, quella che viene applicata in maniera più semplice, dalla palude. Le tecniche, è quella per esempio di dargli dei numeri prima ottimistici e poi subito dopo comunicargli qualche cattiva notizia che gli fa perdere tempo o addirittura rischia di fargli dire una cosa e poi doversela rimangiare. Siccome il Presidente del Consiglio mi raccontava che avevano fatto una riunione per avere alcuni numeri sul bilancio dello Stato e che a un certo punto si era aperto un dibattito tra i vari dirigenti dello Stato, la cosa è incredibile perché se in un'azienda si apre il dibattito sui conti, ma io lo dico sempre, la politica italiana, la matematica è creatività, nella politica italiana c'è la matematica creativa, quindi c'è un altro problema. Una macchina infernale che peraltro è convinta di essere potentissima, come d'altra parte anche in Europa, perché i politici passano, ma loro sono sempre lì, quindi chi ha in mano soldi, indirizzi, che, chi conosce i meandri di quei corridoi così complessi e anche così drammatici in qualche occasione, sono soprattutto questi altissimi dirigenti e i loro collaboratori. Insomma, dunque il presidente deve fare attenzione. La famosa palude. Ripartiamo da un attimo da Bianconi, ma dopo la pubblicità, con Michele Migliano del PD, sindaco di Bari, Maurizio Bianconi, onorevole di Forza Italia, state con noi. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:37 minuti. Allora, siamo sempre con Michele Migliano del PD, sindaco di Bari, e con Maurizio Bianconi, deputato di Forza Italia, al quale voglio chiedere, Bianconi, a parte se vuole replicare alla questione della palude, non abbiamo parlato qui della questione Berlusconi, ma secondo lei riuscirà a trasformare in positivo la situazione certamente negativa di quello che potrebbe essere gli affidamenti ai servizi sociali? Prima una cosa sulla palude. Quando si vuole, ha detto benissimo Emiliano, questa gente che si vendica perché ha tutto in mano, possiede tutto. Allora, siccome Renzi non è scemo, se incomincia a dire vi faccio fuori, questa è la prima assicurazione sulla vita che dà a loro. E le faccio un esempio così si capisce bene quel che voglio dire. Quando lui è entrato a Palazzo Chigi, ha cambiato tutto, gli ha messo una capo dei vigili urbani di Firenze, di sua fiducia, una signora, a ricoprire un ruolo importantissimo di questi burocrati di Stato, ben sapendo che non aveva i titoli. E infatti, così, quando gliel'hanno tolta, e lui ha detto: io ci ho provato, ma avete visto che è successo? Me l'hanno mandata via. Vi piglia i burocrati di turno e se lo piazza lì. È questo Renzi, capito? Dice le cose, ma poi fa come conviene per non cambiare un cavolo. È pericolosissimo. Va bene, questo l'ha già detto. Circa Berlusconi. Berlusconi ha dimostrato tante capacità straordinarie e tanti limiti, ma su una cosa sicuramente nessuno discute, sulla sua capacità di essere invincibile in campagna elettorale, e quindi io penso che ancora questa zampata ce l'abbia, cioè cosa fa? Quindi riuscirà, diciamo, a trasformare, se saranno i servizi sociali, questo in un'opportunità? Sì, sicuramente, ma io vorrò vedere poi se nel posto dove fa fare i servizi sociali non gli fa una bella donazione perché abbiano le camere nuove, la televisione, Sky, per esempio questa potrebbe essere una prima idea. A tutti gli anziani, poi andando lì si è accorto di quei problemi, e allora gli darà tutto, le cose, le macchinine con missile, è straordinario. Va bene. Fatemi sentire un ascoltatore, Eugenio dall'Aquila, che ci ha chiamato. Eugenio, buongiorno, che dice lei? Io dico, innanzitutto sarebbe opportuno non demonizzare le cinque capolista del PD, perché innanzitutto sono delle persone di grande capacità, lo hanno dimostrato nelle interviste. Ma chi le demonizza? No, tutti no, ma sembra che sono le veline. Grillo la pensa così. Io un'altra cosa che direi a Emiliano, che è una persona di grande statura, tra parentesi, di presentarsi, di deve andare, perché in Europa devono andare persone come Emiliano e altri, ma non i vecchi parrucconi. Ma Emiliano vuol fare il presidente della regione Puglia. Benissimo, anche quello, va bene pure. Che fa 10 cose. Però non è un deminuzio, perché lui è secondo, terzo, qua. Tanto Emiliano anche al 50° posto di voti riprende, perché Emiliano è un grandino, è un rappresentante. Eugenio, lei è innamorato di Michele Emiliano. Emiliano è qua, insomma, c'è un ascoltatore dall'acqua. Che le dice di candidarsi comunque, secondo te? No, io volevo dire a Eugenio che le dobbiamo votare le donne, non le dobbiamo solo candidare. Delle ragioni per le quali ovviamente io ho pensato che fosse giusto ritirare la candidatura è che se noi ingombriamo le liste con uomini anche, e lo ringrazio davvero di cuore perché mi ha commosso, e ingombriamo le liste con uomini che prendono molti voti, poi rischiamo perché purtroppo questo è l'andamento elettorale in Italia, di sottrarre voti alle donne. Allora ho pensato che in questa maniera io potessi invitare più facilmente tutti coloro che avrebbero volentieri votato me di votare le donne presenti in lista. Mi pare una cosa giusta, peraltro Alessandro Milan ha detto una cosa che è la verità sacrosanta, cioè ognuno di noi ha una vocazione. la mia vocazione sono le cose che, delle quali sono responsabile direttamente, sono le cose che mi hanno generato, che mi hanno dato entusiasmo, che sono la mia terra, la mia regione. Vuol fare il governatore della Puglia. La Puglia in questo momento ha bisogno di buona politica e quindi io sono qua. Va bene, sentirei Paolo da Palermo, buongiorno Paolo. Buongiorno, allora ho sentito un pochettino quello che si stava dicendo in trasmissione, ma io penso una cosa invece, io penso che a noi italiani del destino di Berlusconi, di Renzi, delle veline, di Formigoni, di tutto ciò, penso che non ci interessa più nulla, noi interessa che vengano fatte le cose per benino. Chi le può fare però, chi governa in questo momento, sì, Renzi? Certo, sì. Certo. Governa chi governa, esatto, ma si devono fare delle politiche per i cittadini, perché sennò, mio caro Milan, temo che il 5 Stelle questa volta prenderà il 70%, perché Beppe Grillo non ha mai guadagnato un voto, ma sono sempre state le cattive politiche che degli hanno altri, dato che hanno perso i voti al 5 Stelle. E questa è sicuramente una teoria in parte condivisibile, cioè il voto di protesta, nel senso che sono gli altri che hanno perso con la loro politica gran parte di voti. Io però negli ultimi due minuti vorrei farvi una domanda su questo, vorrei approfittare del fatto che c'è un ex magistrato, Michele Mignano, e un esponente di Forza Italia. Ma l'avete sentita l'ultima su Dell'Utri, Bianconi, l'ha sentita di Dell'Utri? No. Glielo dico io, è l'apertura della stampa online, è latitante, ieri la procura di Palermo in vista della sentenza definitiva ha emesso un mandato di cattura per il rischio di fuga, ma risulta latitante, non l'hanno trovato. Potrebbe essere secondo alcuni in Libano, a Santo Domingo, in Guinea Bissau addirittura. Ognuno si regola. Ma le sembra normale? Io sono dalla parte di Tortola, che rinunciò anche all'Aticlavio per andare in galera, l'hanno ammazzato perché ha preso un tumore. E Dell'Utri farà quello che vuole. Cioè, è certo che farà quello che vuole. Non mi sento né politicamente né umanamente responsabile né delle sentenze che riguardano Dell'Utri né suoi comportamenti personali. No, farà quello che vuole, certo. E pare che secondo le indiscrezioni l'abbia già fatto, ma è chiaro. Ma è uno stato. Ecco, Emiliano, è normale se fosse confermata la vicenda? Pare che insomma, di fatto l'hanno cercato. La squadra mobile di Milano c'era un mandato d'arresto e non l'hanno trovato. E questo. Ed è irreperibile fino a ieri. Ma se gli ha fatto il mandato, dottore, vuol dire che sanno che è scappato. Che sanno che è scappato, sì, per rischio di fuga. Emiliano, lei che dice? Cioè, se dovesse succedere. Ovviamente sono un magistrato, come posso dire, che è andato spesso a intuito, come è evidente, su queste questioni, perché ho sempre fatto il pubblico ministero, quindi non ho fatto il giudice in senso proprio, facevo l'investigatore, quindi ero autorizzato ad utilizzare l'intuito. Io non credo che Dell'Utri scapperà. Probabilmente, come capita in questi casi, sta sistemando qualche cosina prima di andare in carcere. Dice. Per sistemarla ha bisogno forse di un po' più di tempo di quello che gli è concesso, forse sarà questa la ragione. Però ieri sono andati a cercarlo. Si scatenerebbe una tale caccia all'uomo e lo prenderebbero comunque. Perché, ma se è già, secondo le discrezioni sarebbe già all'estero, cioè la squadra mobile di Milano su mandato della procura di Palermo è andato proprio ad arrestarlo proprio per il rischio di fuga in vista della sentenza definitiva e non l'hanno trovato. Quindi di fatto è già latitante, no? Perché che sarebbe devastante anche per la sua immagine, perché molte delle persone come Dell'Utri sono andate in carcere continuando la loro, tra virgolette, battaglia per affermare la propria persona, la propria personalità. Se invece si desse alla fuga, come si dice tecnicamente, la cosa avrebbe anche un carattere devastante per lui stesso, per le persone che lo conoscono. Se ha deciso così, comunque staremo a vedere. Io ringrazio Michele Mignano, sindaco di Bari del Partito Democratico, e Maurizio Bianconi, deputato di Forza Italia, per essere stati con noi. E dopo il traffico, ogni campagna elettorale succede che vengono date le multe ai partiti per i manifesti affissi abusivamente, magari piazzati fuori zona, magari piazzati prima del tempo consentito, magari messo in posti non legali, sui lampioni, sui muri, insomma succede sempre, e a ogni legge, a ogni tornata elettorale ci si fa una bella sanatoria. Sta per succedere anche questo al comune di Milano? Punto di domanda. Ne parleremo con Marco Cappato, che saluto. Intanto Cappato, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi. Dei Radicali, tra un attimo, dopo il traffico, sono da lei. E allora, come detto, Marco Cappato, presidente del gruppo Radicali Federalista Europeo al Comune di Milano, esponente dei Radicali. Allora Cappato, che lei ne fa una battaglia da tempo contro queste multe, intanto a quanto ammontano le multe che erano state date per la campagna delle amministrative a Milano? Oltre 6 milioni di euro. Bei soldini, insomma, che recuperabili sarebbero stati, avrebbero fatto comodo alle casse, ovviamente a vari partiti, insomma, distribuite un po' così. Che è successo? Credo che un ex assessore abbia fatto ricorso dicendo non mi avete, insomma, e ha vinto questo ricorso. E quindi? Allora, intanto la sanatoria della quale parlavi di solito viene fatta dal Parlamento. Sì. Ora sono un paio d'anni che il Parlamento, forse per la diversa sensibilità dell'opinione pubblica su questi temi o dei media da qualche anno a questa parte, il Parlamento non ha osato fare sanatorie, per cui teoricamente queste multe ormai dovrebbero andare a essere pagate. Sono passati quasi 3 anni da quelle elezioni comunali. Sì. Quanto è stato pagato di quei oltre 6 milioni e 400 mila euro circa? Zero euro, adesso sono stati pagati 0 euro. Perché sperano sempre che qualcosa succeda, no? Ci sono vari passaggi amministrativi anche molto difficili tecnicamente da seguire, ma insomma prima un candidato può presentare degli scritti difensivi al comune, poi il comune a quanto pare li ha rigettati e ha cominciato all'inizio dell'anno, quindi parliamo da 2 anni e mezzo dopo i fatti, a emettere delle ordinanze di ingiunzione, che sarebbero quelle per le quali poi alla fine bisognerebbe pagare. Tra l'altro, tra questo c'è la curiosità, il sindaco Pisapia è stato anche lui coinvolto per alcuni manifesti, anche lui credo debba pagare dei soldi, per cui il comune... Per lui ci sono oltre 400 mila euro. Per cui il comune chiede anche al sindaco di pagare. Sì, poi ci sono i partiti, alcuni partiti intorno alla... 700, 800 mila euro, sinistra, Lega, insomma c'è un po' di tutto. Allora, il sindaco in effetti si trova in una posizione un po' difficile perché ha preannunciato che non avrebbe fatto ricorso e adesso è arrivato il momento delle ordinanze di ingiunzione. In conseguenza a questa prima vittoria ottenuta da parte di un paio di ricorrenti davanti al giudice di pace, che in realtà non ha ancora dato ragione definitivamente ma ha sospeso le ordinanze di ingiunzione, praticamente il comune si è accorto che queste ordinanze di ingiunzione erano state fatte male, sì, perché esatto, un assessore, l'ex assessore Croce ha fatto ricorso, ha vinto, e allora il comune ha detto oddio, adesso faranno tutti ricorso contro queste ordinanze di ingiunzione, stai a vedere che le annullano tutte, hanno tutti ragione, allora le ha sospese e le rifarà. Le ha annullate con decorrenza immediata, e questo è la cosa che forse piace di meno, anzi che deve piacere di meno di questa di quest'ultimo aspetto della vicenda, perché appunto con decorrenza immediata vuol dire che c'erano probabilmente diversi candidati che nei prossimi giorni o settimane sarebbero stati di fronte alla scelta tra presentare formalmente un ricorso o pagare. Ricordo che il sindaco aveva detto che lui non avrebbe presentato ricorso. A questo punto questo annullamento di tutte le ordinanze di ingiunzione sospende tutto per il momento, ridà dei termini però la domanda che si fanno tutti gli italiani e milanesi non solo è: ma alla fine, secondo te, ma questi 6 milioni e 400 mila euro la comunità li recupererà o no? Ma qui c'è una fine, intanto è ben determinata, perché se non si raccolgono entro 5 anni, se non si riscuotono questi soldi entro 5 anni, va tutto dove va, in Italia, che non è nel cesso in questo caso, ma più tecnicamente, anche se l'effetto è simile, è la prescrizione. Allora, evidentemente, però, qui ci sarà una responsabilità politica molto chiara, nel senso che anche il mandato del sindaco e del consiglio comunale dura 5 anni. Sì. Per cui noi, esattamente nel giorno della prossima votazione comunale, sapremo se l'amministrazione Pisapia è stata la prima ed unica in Italia ad avere riscosso delle somme per cifre consistenti sulle affissioni elettorali abusive di campagna elettorale, o se farà come tutti. Oppure se avrà secondo te, voglio dire, ma questo pagherà negativamente in caso, cioè uno vince o perde nel caso una rielezione in base a una roba del genere? Temo di no, cioè, ma non, no, che io voglio augurare la sconfitta. Ecco, io su questo sono più tra virgolette positivo. Perché Milano ha così tante multe? Perché la cifra è molto alta rispetto a quello che accade in giro per l'Italia. È semplicemente perché abbiamo fatto una battaglia con diffide, siamo stati a nostra volta diffidati dai dirigenti comunali che dicevano che non era vero, che non facevano i controlli, eccetera. Per cui c'è una somma particolarmente alta e francamente penso che se l'amministrazione, tra l'altro con il sindaco e altri esponenti così pesantemente coinvolti, dovesse fare in pratica una politica che salva se stessi, credo che questa potrebbe sfuggire all'opinione pubblica. Staremo a vedere. Io intanto ringrazio Marco Cappato dei Radicali per essere stato con noi. Seguiremo questa vicenda e questa battaglia, ripeto, 6.400.000 euro per affissioni abusive durante le ultime amministrative a Milano, che vedremo se verranno poi pagati e riscossi dallo stesso comune. Ci fermiamo qui anche per oggi, e che per questa settimana ovviamente potete riascoltare tutto su radio24.it. ci potete ascoltare, c'è Miriam Lucchetti pronta per il suo weekend, c'è l'alpino Peter Bescapè pronto per il suo weekend, c'è Alessandro Marco Tulli pronto per il suo weekend, c'è Elisabetta Fusconi pronta per il suo weekend, ci sono anch'io pronto per il mio weekend. Su Twitter siamo sempre raggiungibili, io sono al profilo Alino Milan, e che dire, vogliamo dire la dunata degli alpini a Pordenone? A maggio, 9-11 maggio, Peter Bescapè c'è dal 7, a lunedì.